staccare la radio, questo è il 140 con il BC60. Allora vedi che cambia anche il coso, in polarizzazione, sembra di no, però secondo me cambia anche l'emissione, cioè ti taglia un pochettino di acuti, secondo me, a parte la radio, diciamo che la radio sicuramente qualche differenza c'è tra il Kenwood e l'altro, e cambia anche il tipo di coso, di modulazione, secondo me, poco però cambia. Sì, beh, questa finge un po' di più, è fatta un po' più apposta, per la M, quella là è... Guarda, quella che stavo usando poc'anzi è la stessa che tu senti da oggi, quello lì è un 720E, ok? Come io dico sempre a Francesco, se l'ascolto, procurati un MC60, un MC60 per fare la connessione MC60, spinge molto di più rispetto a un microfono di quelli che usa lui, capito? Tipo Adonis, tipo Opsin, è un abbinamento che io avevo già fatto negli anni e mi sono accorto che va molto bene. Molti hanno questi abbinamenti qua, con l'incom hanno microfoni della Cable, microfoni della, insomma, non originali Incom, ecco. No, ma come la Cable sulla M in 27, in 11 metri, penso non ci sia niente di meglio, parliamo di radio normale senza aver fatto delle modifiche. No, perché in realtà non è sulla modifica, è una radio che ho preso, anzi ho fatto uno scambio, la verità. Perché esteticamente mi piace moltissimo, va molto bene, guarda, adesso l'ho messa, ho commutato in orizzontale, ho lasciato in orizzontale, sono passato in verticale con 140, ma guarda, sto ascoltando l'80 metri, molto disturbato, ma è una ricezione favolosa, capito? Proprio veramente bella. Ok, vai, facciamo girare, comunque ormai sono tornato col capo, vai. Se vuoi commuto anche, me ne vado un po' nell'altra base e mi metto il baracchino così bombardo ancora di meno. Quanto è che tocca? Sta, Luca, va! Sto masticando già, riprendete voi. Scappa, là. Vabbè, là, mi prendo io allora. E dopo mi lancio a Giulio. E vabbè, qualsiasi radio usi tu, va bene, là. Non c'è problema. Comunque, il Kenwood io preferisco a... C'ha ragione Roberto, c'ha una modulazione che è unica. È unica. E ha ragione anche tu che come il Kenwood di 27 nelle parti da diamatoriali non ce n'è. Avanti Giulio. E Giulio sta cambiando radio. Beh, io ho iniziato con il Kenwood nel 1986, quindi non mi sono mai allontanato. Le radio ne ho avute tante, provate, in AM fatte tante, tantissime prove anche con microfoni e versioni. Una è quella appunto di poter inserire un MC60, allora così chiamato trio, che ho anche il 50 nuovo. E quindi ho fatto quella prova lì e mi sono accorto che andava bene anche il 60 su, quindi microfono Kenwood sull'Incom, ma molto bene anche l'SM20, quindi microfono Incom su Kenwood, si sposano bene sia Incom con Kenwood che Kenwood con Incom, capito già? No, sono cose che ho già fatto, mi interessa rifarle. Quando ne ho voglia posso provare qualsiasi tipo di microfono, non ce n'è problema. Va bene, e Giulio? È castigato. Giulio, riprendi, non ho capito nulla che mi siete sopra modulato. Abbiamo modulato in due, vabbè. No, stavo dicendo che il Kenwood è senz'altro un'altra storia, non ci sono dubbi, che se vuoi mettere il Kenwood con i baracchini, non c'è paragone, ci mancherebbe altro. Però la radio che stavo utilizzando poc'anzi è molto, ma molto apprezzabile, veramente, una radio bella, pulita, chiara. E io gli avevo consigliato a Claudio di usare qualche volta anche il corno di bue per vedere se c'è differenza, ma non credo, perché purtroppo lui con qualsiasi microfono ha sempre la stessa modulazione, la stessa timbrica, è sempre alla grande, non l'ho mai sentito uscire male, mai, vai, vai, a differenza di diverse persone. Qualche volta anche a me è capitato di uscire male perché non avevo controllato precedentemente. Va bene, dai, avanti Claudio. Sì. Sì, ho lasciato un attimo di bianco, ho cambiato solo scrivania, adesso sono sulla base fatta da Mastro Giulio, mentre prima ero nell'altra parte. Devo mandare la foto per vedere come mi sono organizzato. Questo è il DAC con l'MB più 5. facciamo due chiacchiere con questo, dai. E questo si sente che la voce è calda. È diventato Claudio il caldo. Vabbè, preferiti. Ma anche qualche cosina di segnale ci è abbassato questo. 960, da 960 a 950. Comunque siamo talmente vicini che è fortissimo il segnale. Ok, no, il cable, ripeto, come ho detto prima, c'è di bello che tu non devi fare niente, prendi, attacchi il microfono e dici in 27, non devi adattare niente, non devi far ammattare il cervello. Ma con altre radio teoricamente potresti avvicinarti, ma devi cercare di fare delle operazioni magari adattando certe cose. Per cui il cable penso che, ma anche in banda laterale ho visto molti radioamatori usano ancora il vecchio 940, ne parlano benissimo, dicono che è una radio eccellente, molto superiore a apparati molto più recenti, c'è una bella modulazione unica, è come sentire una radio equalizzata. Secondo me molte volte li ascoltavo i radioamatori con i Comod ultima generazione, altri con vecchi Kenwood, eppure cacca, la modulazione del Kenwood è bella, corposa, calda e naturale, quell'altra magari la senti tipo equalizzata, un po' diversa, però è come quando ascolti un disco vinile confrontato con un compact disc, è diversa, preferisco sempre la cosa, la modulazione più naturale io. Io il 940 l'ho usato anche in AM, è una radio eccezionale, ma ti posso garantire che già perde tantissimo rispetto alle piccole, sia al 140, al 680, al 430, al 440. Va bene per carità, però perde tantissimo, non ha la forza e la modulazione che possono avere quelle piccole, diciamo, dai. Questa è per esperienza mia vissuta, poi è chiaro che può piacere anche quella, però va molto bene 940 in AM. No, questo è il che era acceso, adesso cambio scrivania e facciamo due chiacchiere così, non andiamo a bombardare le orecchie a nessuno. Avanti Gianni, riprendi, fai girare per Giulio. Sì, va bene. E che dire? Appunto, l'abbiamo detto, Kenwood è stato promosso, dai. Poi vabbè, ce ne saranno altri che vanno bene, ma come Kenwood la modulazione è quella, hai ragione Roberto, senza regolazione c'è saluta, dici come Dio comanda. Il problema è che poi il 140 c'è stato di modulazione, bisogna regolare quello, quello lì che un po' mi dava fastidio perché alta, bassa, vai, mamma mia, mi sono rotto le palle io per quello. Ok già, no, ma io devo essere sincero, a me mi piace anche lavorarci sulla radio, non voglio una cosa che mi rimanga sempre fissa, che mi vada bene, voglio anche lavorarci, regolare, abbassare, sollevare, insomma tutte queste cose, secondo me quello fa parte anche dell'attività radioamatoriale, anche se la mia attività è cibistica più che altro, perciò sì, tu hai ragione, accendi, parli all'infinito senza fare nessuna regolazione, invece io ci prendo gusto proprio a fare anche le regolazioni, Gianni, e io penso che sia anche quello importante, vabbè, ognuno ha il suo modo di lavorare in radio, per cui va bene sempre, dai, non c'è problema, avanti qua. No, non è quello il problema, il problema è che uno dice va alta e l'altro dice va bassa, e l'altro uno non andava bene una cosa e l'altro non andava bene l'altra, troppo forte, troppo basso, alla fine mi sono rotto le palle e ve lo sono venuto, vero? Sì, però se ben ti ricordi io non ero molto, molto contento dell'operazione che hai fatto, per il semplice fatto che se una persona vicina, guarda io Roberto, Antonello, ma tanti altri che insomma, quindi non è che se una radio è regolata che va bene, non è che tu ti puoi permettere di dirmi stai uscendo male, no, io sto uscendo bene, è che purtroppo siamo talmente vicini che è chiaro che non mi puoi ascoltare come ti posso ascoltare io da lontano, ma se io ti confermo, io come tanti altri, perché ben mi ricordo, ti confermo confermavano che andavi benissimo, avevamo addirittura trovato la posizione giusta, anche perché avevi un ottimo microfono che era quell'Oxin, il 908 parametrico, l'avevamo regolato, andavi benissimo, e tutti, stai uscendo male, e quello, stai uscendo male, ma non è così, cioè bisogna stare anche attenti come si dicono le cose, perché uno è uscire male, come può uscire male uno che ha un problema su un microfono? Allora lì stai uscendo male, quindi devi fare qualcosa. Oppure puoi dire io non ti ascolto bene perché siamo vicini, oppure un'altra cosa, ma a te continuavano a dirti stai uscendo male, stai uscendo male, stai uscendo male, alla fine ti si è rotto le scatole e te l'hai venduta, ma io se ben ti ricordi non ero d'accordo, capito? Avanti Roberto. Sì, molte volte poi uno che fa queste osservazioni l'ascolta con un baracchino, con l'altro parlante attaccato sotto la scrivania che magari non riesce a sentire. Anche poco fa io ho provato il baracchino, ero con la lampada 48 che c'è sotto la console dove c'ho tutto quanto, e se ti metti ad ascoltare le radio è tutto diverso. Mentre un'altra cosa, quando si fanno queste valutazioni dalle radio, a meno che non sia talmente incomprensibile e brutta che te ne accorgi comunque, cioè deve avere sempre un altro parlante esterno, possibilmente anche di qualità, così riesci a renderti conto dei difetti. Giulio, comunque la foto è arrivata, bella, bella radio, era quella che dicevo io, bella. Quando dice stai uscendo male, è perché? Perché magari è abituato a sentire una persona sempre allo stesso modo. Prendiamo ad esempio noi, l'esempio di Claudio. Claudio quando esce col Kenwood si sa, è troppo bella la modulazione. Però quando esce anche con i baracchini, non gli si può dire stai uscendo male. Eppure una differenza c'è, e come? Se poi uno confonde la qualità della radio col fatto che uno stia uscendo bene o stia uscendo male, questo allora è da discutere molto, perché uno può uscire in diverso modo ma uscire ugualmente bene. Io la penso in questo modo, uno non è che deve fare orecchio all'abitudine di una persona che ha sentito sempre allo stesso modo. Se io domani cambio radio e tu mi senti in un altro modo, magari mi puoi dire stai uscendo male. No, quello è sbagliato, ci vuole anche un pochino di cognizione nell'esprimere certe frasi. Avanti Claudio. Riprendo io, no Giulio, stavo dicendo, forse ti ho parlato sopra, bella quella radio che mi ha mandato l'immagine, quella che dicevo io, veramente una bella radio. Ok, sì, ma sarà anche bella, è questione di gusti o vabbè, a me sinceramente le radio così barrasoni, grandi, io per me non mi piacciono. L'unica radio grande che mi piace è il DAC e il Galaxy, basta, tutte le altre non me ne piace nemmeno una. Le radio vintage a me, l'unica che mi piace è il Galaxy Saturn Echo, tutto lì. Poi tutte le altre, la verità, io li guardo sempre continuamente, giro sempre al computer, cerco quasi tutti i giorni, perché intanto non so fare altro al computer, e dunque mi diverto e passo il tempo in questo modo, anche perché il tempo non mi manca. E devo dire che ne ho visto migliaia di queste radio. Le uniche due radio che mi sono sempre piaciute sono quelle due che ho appena detto. Tutte le altre saranno belle, tutto quello che vuoi, ma non mi piacciono. Mi piace di più il veicolare. Vabbè, io l'ho preso così. No, io il veicolare è proprio zero, proprio non mi piace. Io diversi, ma proprio non... La scomodità di attaccare l'alimentatore, di questi cacchio di microfoni palmari, proprio preferisco una bella base, più comoda, così anche gli apparati un po' più sofisticati. Mi piacciono sempre con l'alimentatore interno grande, col manopolone grande, col display, lo strumentino bello grande, lo Smith, così mi piacciono. No? Sì, ma indubbiamente ognuno ha i suoi gusti, chiaramente. No, ma a me mi piacciono le radio tipo che so io, il Galaxy 2, il Pluto, il Kodak, queste radio così, sono radio che a me piacciono, sono piccole, prendono poco spazio, sono tranquillamente le 3009, il 6009, il 9009 anche, il 555, sono tutte radio quelle lì, per me bellissime, a differenza di questi barrasoni grandi, che sono belli, sicuramente sono belli, a chi piacciono sono belli, ma a me non mi appassiona, la verità, io l'ho sempre pensato, o Robert. va bene, dai, avanti Gianni. E anche io sono d'accordo con Robert, perché a me piace la stazione di base per casa. Quello che non sono d'accordo con Robert è il fatto dei microfoni, perché è una questione di praticità. Io uso quello palmare, mi trovo meglio, perché essendo sdraiato mi viene meglio con quello palmare, perché io mi sdraio e parlo al baracchino molto comodo. No, io non mi trovo assolutamente, a parte che a me mi piace stare seduto, usato, così tranquillo, appoggiato alla sedia a girevole dove c'è la radio, schiaccio il pulsante, mi rilasso, con questi microfoni a momenti sei troppo vicino, a momenti alzi troppo la voce o quelli palmari, a momenti ti impatti la voce, per cui hai sempre, non hai l'emissione costante, così invece io sono sempre la solita distanza, schiaccio il tastino e buh, non ci riesco, con quello palmare mi trovo proprio male, via. È una questione di abitudine, Robe, io per dire nel palmare, vedi adesso sto usando un palmare, tu te ne sei accorto che ho cambiato. Sì, infatti la voce sembra troppo vicina, secondo me. Cappa, così va bene, va meglio. Comunque sono d'accordo con Giulio, i veicolari sono i migliori. Vabbè, dipende tutto dai gusti, dallo spazio che c'ha. Sì, ma questi, boh, questi hanno ragione. Più carino un veicolare, magari metti uno un po' più vicino all'altro e fanno lo stesso station. Tipo il Galaxy Saturn Echo, è una ragione, secondo me è bello perché è tutto illuminato, funziona, cioè esce bene. Non dico che non esce bene, però sono ragioni secondo me. Orientato, il posto bisogna avere luce, io ce l'ho nel mobile, a me non mi dà nessun fastidio, quello che mi occupa un apparecchio come dici tu mi occupa quello, perché quello non ha bisogno di alimentatore, gli altri apparecchi hanno bisogno anche di alimentatore, quindi c'ho vicino l'alimentatore e gli altri apparecchi occupano lo stesso spazio, per cui va bene, un ripiano va benissimo, dove l'ho messo non c'è nessun problema, ci sta il microfono e anche il gas a fianco. Ok, avanti Claudio. Io. Beh, giustamente questione di spazio, io ho in base, ma ho anche i veicolari, ho in base perché c'ho spazio. C'ho spazio, capito? Se uno che non ha spazio è chiaro che non è che si può punire, è meglio il veicolare. No, ma i veicolari sono belli, ce ne sono tantissimi molto belli, non è un problema quello. È che, come dice Gianni, anche lui che vuole la sua parte, io quando mi guardo il DAC, per dire, no? Faccio sempre l'esempio del DAC, che è uno dei più grandi baracchini al mondo. Guardo il DAC, guardo un 294 dell'Inoiti, venivo uni due, uno sopra l'altro per fare la grandezza del DAC, e quindi come porca miseria, c'è la differenza, c'è, capito, tutto lì. Avanti Robert, riprendi. Ma il DAC tuo, Claudio, quanto lo sta alimentando? Quello solo a 220 va, non va a 12 volts. Ah, non è 110, dico? Sì, 220 per 110. Sì, c'è il suo trasformatorino dietro. Non si vede, comunque dietro. 110 volts, solo così funziona quello, non ne ha 12 volts a differenza degli altri base che ho, capito? Vabbè, a valvole ci sarebbe bisogno di un alimentatore molto grosso per farlo andare, troppo grosso. No, anche lui, sul mio dietro gli ho messo, alla GBC ho comprato uno di quegli alimentatori trasformatori da 110, lo porta a 220, messo dietro non si vede. Quelli originali americani sono tutti a 110. No, questo è 110, anche il trasformatore è americano, non è italiano. Siamo alla radio, ho capito, su originale. C'è un connettore a parte sopra che se lo perdo, cioè no, che lo perdo, non so se lo trovo. Vabbè. Avanti Giulio, datemi di nuovo altri 10 minuti, se non vi rispondo perché mi faccio la spola da questa stanza al salone che c'è mia moglie, appunto, che è ingessata, quindi devo andare ogni tanto a controllare se ha bisogno di qualcosa, perché se lascio la porta aperta sente la TV ed è un casino. Vai Giulio. Ok qua. Sì, beh certo, tornando al discorso base, ci sono quelle persone che apprezzano il baracchino base, io sto parlando di baracchini, però che sia ben chiaro, non confondiamo, perché la radio professionale è tutto un altro discorso. Quelle che mi piacciono, le base grandi, come tutta una bella venuta come quelle che hanno l'audio. Thank you. Sì, ciao, ma ci vediamo. Ah, Tonino, non mi hai chiuso la Tonino, ciao. Stai usando il DAC anche tu? Il DAC, 60 metri. E il DAC, perlomeno, da tavolo, è sotto sedere. Ah, ok, ok, no, già è forte la radio. Ok, ben sentito, ciao Tonino, da moto non ci sentivamo, in compagnia mia di Giulio, Gianni Doppio Nurmo, Claudio Sparviero e Luca Dal Monte. Avanti, facciamo girare a Giulio e poi passerà agli altri. Io avevo appena finito il passaggio, forse ci siamo sovrammodulati, non lo so. No, stavo dicendo, ci sono chiaramente le persone che apprezzano i baracchini base, ci sono quelli che apprezzano i baracchini veicolari. Io apprezzo di più quelli veicolari, però che siano baracchini, no, non Mondezza, sia ben chiaro. Parlando di Pluto, parlando di Galaxy, parlando di questo tipo di Cornes, eccetera, eccetera, questo tipo di baracchini. Poi ci sono baracchini di padre di Chico, quelli no, non li voglio nemmeno vedere. Chi è entrato? Ma ci vediamo, avanti. Tonino, Ah, Tonino, avanti Tonino. Ciao Giulio. Sono entrato dalla battutina, su me nominato Galaxy. È quello che sto usando io. Appunto, sono delle radio straordinarie. Sono delle radio straordinarie. Galaxy, tutte le qualità delle radio Galaxy per me sono uno meglio dell'altro. Io ce l'ho avuto, il Galaxy, Galaxy 2, e devo dire che funzionava, che era una meraviglia. Era a livello di modulazione come il Superstar, se mi rinnovo, forse anche meglio, e andava benissimo. Poi ho avuto anche il 789, che ce l'ho sempre, il 789 della Sommercamp, anche quello funziona a meraviglia, solo che adesso sono un sacco di tempo e non l'ho più usato. E bisogna che lo tiri fuori, almeno a metterlo in funzione qualche volta. Va bene, dai. Siamo visiosi. Vai Gianni è caduto dalla Siria, vai Roberto. Aspetta, c'è anche, facciamo salutare a Claudio e a Luca, a Tonino. Ciao Claudio, ciao Luca, vedi Luca. Sì, ya sono rientrato, ciao Tonino. Sono rientrato, e niente. Giulio, sei d'accordo con... No, io sono d'accordo con te per quanto riguarda i veicolari. Sicuramente ci sono persone che piace il veicolare, c'è persone che piace di più la base. A me la verità, tutti i bar ragioni non mi piacciono, saranno belli, funzionano bene, indubbiamente non ho niente da dire in quanto a questo, ci mancherebbe altro. Però non lo so, io ho sempre apprezzato di più il veicolare. Vabbè, dai, facciamo girare, vediamo se è rientrato Gianni. Oh, ci sono le etichette dei veicolari, la serie President, sono dei baracchini pure. Appunto, io sto parlando di baracchini come si deve, no? Non di Mondezza, sia ben chiaro, E poi parliamo di baracchini dei quattro soldi, no? Io sto parlando di baracchini di un certo tipo, veicolare, perché se no, allora è chiaro che non posso essere d'accordo, ci mancherebbe altro. È tutto lì. Però, ad esempio, un Pluto a me piace moltissimo, un Galaxy a me piace moltissimo, un Cornex a me piace moltissimo, sono un Cobra, quelli veicolari, a me piace moltissimo, sono tutti baracchini straordinari per me, io li vedo così e li apprezzo in quella maniera, per cui sono soddisfatto quando li vedo e quando li ascolto. Avanti Roberto. Sì, ok, c'era anche Claudio. Ci sei ancora Claudio? Si allontanava perché sta attendendo la moglie, Claudio, ogni tanto si allontana. Ok, dai, rifacciamo riprendere a Tonino, avanti Tonino, a te il mic. Sì Giulia, comunque, barasone o non barasone, a me piace perché non mi ha fastidio, è dentro il mobile, aspetta, abbasso un po', è dentro il mobile, non mi dà fastidio, capito? Perché ho costruito un mobile che è a zero praticamente dove c'è il Galaxy. Quindi il veicolare sì, mi piace vederli, però averlo a trasmettere non mi piace. Mi piace il Galaxy perché c'ha le svite grandi, tutto quanto, capito? È tutta un'altra cosa, dai. Bene, Luca, le prime. Un attimo, stavo buttando la forza. riprendi Giulia. Ok Tony. Questo che sto usando adesso, Tony, con il microfono normale, è quello che tu conosci, quello che ti avevo fatto vedere una volta. È questo che sto usando adesso, da un'oretta che sono in frequenza più o meno. Con il microfono normalissimo, per cui più che bene, e ascolto più che bene. Non c'è problema, vabbè, avanti, vabbè. Scusate, mi stavo chiamando al telefono. L'ha volato, il telefono è squillato. Sì, dunque, modulazione, si sa che un microfono ormai sta usando, però è chiara, è perfetta, voce tua. Sì, e beh certo, lo sto usando col microfono normale, certo. Potrei cambiare anche il microfono volendo, non c'è problema. Perché il MD4 che ho va bene anche qua, va bene anche su questo baracchino qua, per cui anche perché io faccio sempre registrazioni e dunque tutti i microfoni li posso far girare dappertutto. Questa addirittura, questo microfono che sto usando adesso, normalissimo, lo posso usare anche sul K, ti puoi immaginare, perciò no, non c'è problema. Io ho la mania degli espressori, tutti i microfoni per me vanno bene a tutti i baracchini. Perché? Perché uso lo spessore che ho fatto adattato per quel tipo di microfono, tutto lì. Va bene, vediamo se è rientrato Gianni? Gianni non c'è. Avanti ancora Roberto, mi sembra. Anche Roberto non c'è, avanti Tonio. Siamo rimasti soli, io, tu e Luca. Roberto al telefono. Claudio è intanto della sua 50. Ecco, rientrava subito però, giustamente. Vediamo se è rientrato. Claudio? A quanto pare no. Ma comunque io l'attacco che ho fatto con questo microfono mi sento nelle cuffie la voce mia, amplificata, e sento a voi. E quindi mi so regolare più o meno dalla modulazione, capito giù? Sì, ma va bene, Tony, va benissimo, non c'è problema. Che aspetta, la buglia se va bene, alla grande, no? Poi tu hai anche una voce robusta per natura e per cui va bene, non c'è problema, Tony. Alla grande. Poi io non sono vigiliato come tante persone che dicono sta uscendo male, sta uscendo bene. Io ascolto tutte le modulazioni che arrivano, perché intanto tutti uguali non possiamo mai essere. Però se sta uscendo male te lo dico. Ma non è che pretendo che poi uno possa essere campione del mondo dell'audio, no, assolutamente. A me quando mi sentono bene e quando io sento bene gli altri mi va benissimo, non c'è problema. Poi che ci siano più toni acuti oppure toni bassi non è un problema per me, io l'ho appreso così. Vai Luca. Ci hanno abbandonato oggi, siamo rimasti soli. Vabbè, già rientreranno, non c'è problema, è tanto ancora è presto, quando a cenare, sono appena le 7:05, per cui vi buon ancora un'ora per la magnusa qua. Io penso che sia anche molto la timbrica di modulazione della persona, a parte il microfono buono, che ci vuole il microfono buono, però anche influisce molto anche la voce di persona, capito? Ah, sicuramente, questo è più che scontato questo discorso. Infatti ognuno di noi dovrebbe utilizzare il microfono che più gli si addice. Io ad esempio, faccio un esempio, se metto l'MC60 nel K, mi dicono che esco peggio dell'MB4. E se paragoniamo l'MC60 con l'MB4, io con i soldi dell'MC60 ne comprerei 4 di microfoni MB4, nonostante che ho un microfono molto ma molto inferiore, eppure mi dicono che esco con la voce migliore. E anche io devo essere sincero, ascoltandomi in cuffia ritengo che con l'MB4 la mia voce sia più colposa che con l'MC60, perché l'MC60 mi dà troppi toni alti. Siccome io già per natura ho i toni alti nella voce, e dunque mi serve un microfono che ci siano anche dei toni bassi. E dopo diverse prove ho adattato e mi hanno anche consigliato, da chi se ne intende, uno di questi ad esempio è Claudio, mi ha detto usa il MB4 perché come modulazione è superiore. E io ci credo, perché me l'ha detto uno che ha 40 anni e oltre di esperienza in frequenza, perché non ci devo credere, scusa. Capo. Sì, comunque, dimmi come sono i toni, bassi o alti? Tu hai una voce molto robusta, per cui, ad esempio, prima che entrassi tu, avevo io un tipo di regolazione, siccome qua c'è il coso, come si chiama, il voice lock, e io l'ho dovuto regolare per adeguarlo alla tua voce. Quello che hai sentito è solo un grido della partita di calcio. Sì, perché hai dei toni molto, molto cupi praticamente, io ti sento così, cioè sei con una voce bella, robusta proprio, a differenza di altre persone che hanno più toni alti, capito? No, toni. Comunque va benissimo, non c'è problema. Comunque si capisce bene lo stesso, dai, anche se la voce cupa. No, non è cupa, assolutamente, non è cupa, oppure cupa è soffocata, per così dire. No, questa è robusta, non è cupa, è robusta. Sono rientrato un attimino, dai, di nuovo a salutare Torino. Ciao Torino. Ciao Claudio, tanti saluti da Gianni che ce lo sentì al telefono. Da Gianni, Gianni. Non Gianni Magni, Muros. Ah, sì, grazie. Sì, ho visto una sua chiamata all'ora di pranzo, ma ero incasinato con mia moglie, non ho potuto chiamare, non ho potuto rispondere. Ma già, lo sento su WhatsApp, non c'è problema. Ciao Gianni, si era ascolto, un abbraccio. Ok, vabbè, io c'ho mia moglie che ho bisogno di spostarmi ogni tanto, accompagnarla a fare, quindi mi devo spostare. Avanti, chi è entrato Giulio? Siamo sempre gli stessi? No, si sono assentati quasi tutti, ero io e Torino solamente, adesso ci sei anche tu, poi gli altri rientreranno, non lo so. Roberto è al telefono, Gianni è sparito, Luca non si sente lo stesso, per cui va bene così. Sì, ma no. Poi ripeto, Tony, io non faccio, non ne faccio una questione di coso, di bella o brutta della modulazione. A me quando una modulazione di una persona mi arriva pulita, bella, è che di una certa potenza anche, perché non devo stare sempre abbassando o aumentando il volume quando sento la radio più forte. Questo no, ci vuole una certa regolazione del volume e con quella regolazione io devo ascoltare tutti allo stesso modo, inteso come volume di modulazione. Poi come chiarezza ognuno ha la sua timbrica, è ovvio, no? Però quella più con toni acuti, quella con toni più bassi, è interessante che sia sempre pulita, che non ci sia sporcizia nella radio, per me va sempre bene. Io considero una radio Super 5. Mi sono spiegato, Tony? Alla grande, perfetto. Andrà bene. Sì, comunque, io ho chiamato Gianni per un favore, giustamente, che me lo sta procurando. Il lineare mio, famoso, che è dal fusibile, poi sai cos'è partito il condensatore da 600 volts, 47 microfarad, non ce l'hai neanche Fusaro. Niente, Fusaro ha chiamato al GBC, forse neanche loro. Comunque, Gianni me lo sta procurando lui. E questo fa un immenso piacere. Ma Gianni è così. Gianni è una persona che quando le chiedi le cose, soprattutto in questo contesto così, procurare valvole, ma ha dato le valvole del DAC che era completamente, aveva un watt e mezzo, adesso sta funzionando benissimo, questo è il DAC, c'ha i suoi quasi 20 watt, va bene. E tante altre cose che ci scambiamo e ci facciamo grandi favori. Gianni è una persona correttissima, una persona che fa tutto per tutti, è una persona veramente in gamba, io lo stimo tantissimo a Gianni. Ci siamo sentiti anche ieri, ci abbiamo scambiato due cosettine al telefono, così ci sentiamo spesso. Ok, anche a me, adesso io devo mettere a posto un valvolare e lui si è appunto offerto di darmi una mano, perché io non è che sono all'altezza di poterlo fare, lui è una vita e mezzo a quelle radio lì e quindi giustamente capisce e sa fare molto più di me. Quindi come vedi è una persona molto, insomma, eh, si, si mette a disposizione, ecco. Ben vengano queste persone. Avanti Giulio. Certo, già lo conosciamo Gianni, è una persona seria, una persona anche capace, non ci sono dubbi, questo sì. Anche se io le ho fatto più volte osservazione perché non riuscivo a sentirlo, ma adesso ho visto ultimamente riesco a ascoltare bene anche quando muoio, non c'è problema. E mi basta così, non è che voglio sentire una modulazione spaccolica, no, assolutamente. Ma anche se mi arrivi Santiago 5, però ti voglio sentire. Ecco, questo che importa a me, proprio appunto a quello mi riferivo io poc'anzi, Tony. Anche se arrivi il basso di segnale, ti voglio sentire, perché è così che deve essere. Avanti, Tony. Caspa, sono vagonato, è entrato Luca. Avanti. No, Roberto, sono io che sono entrato. Ah, Roberto, pardon. Sì, ho avuto un passaggio, poi ti rilascio subito, Roberto. Guarda, già, Claudio, abbiamo parlato circa un'oretta al telefono. Abbiamo parlato un po' di tutto. Le hanno anche detto qualche cosa contro di me. Ho detto guarda, non ti dico niente. Parla con Claudio Sparviero, ti lo dirà lui che persona sono io. Ma non dico altro. Non voglio vantarmi né nulla. Io sono una persona che è facile affari miei. Che non si muove leggermente. Tutto qua, sono un nemico delle chiacchiere. Avanti. Dai qua, il passaggio tempo io rilascio per la testa che è entrato. Claudio si è spostato il figlio di me. E io, ok, leggeramente già lo sai, meglio lasciarli perdere. Quelli che parlano male alle spalle di una persona ti possono parlare alle spalle di te, per cui meglio lasciar perdere quel tipo di persona. Da parte mia li escludo, li allontano. Ok, vediamo che è rimasto qua. Claudio era sempre in girella per il fatto della voce, purtroppo ha avuto questo infortunio che sta sperando che si risolva quanto prima. Avanti Claudio, se ci sei, se no va Giulio. Giulio a te. Quando scendo le scale, quando salgo no, ma quando scendo le scale sento ancora una puntina di dolore, comunque già sta passando. Sarei dovuto andare anch'io all'ospedale, ma non ci sono andato. Boh, forse ho fatto male, forse ho fatto bene, perché c'era quel periodo sempre del Covid e non ho voluto rischiare, perché all'ospedale avevano altre cose più importanti da vedere, altre persone più malate di me in quel caso lì. Va bene, dai, avanti Tony. Scusate se non vi rispondo, sto mettendo il ghiaccio la borsa di ghiaccio a mia moglie nel piede. Ok, già sono qua, riprendi Tony. Ecco, facciate, avevo capito che ti eri spostato giustamente. E vabbè, sono cose che succede. Sì, comunque, anche Roberto mi ha conosciuto. Io sono una persona che sto entrando anche molto poco in frequenza perché ho tutt'altra cosa da fare. Quando ho qualche 10 minuti, mezz'ora a parlare con gli amici mi fa un immenso piacere. Quando c'è casino, portate con... Saluto, ciao a tutti, mi guardo la televisione e non mi arrabbio con nessuno. Sono tranquillo, poi sono cardiopatico, non mi devo incantare con il suo. Avanti, va bene. Hai detto bene, la radio è sempre un divertimento, almeno da parte mia arrabbiarsi, tirarsi lo stomaco, il fegato, matarsi il fegato, lo stomaco, il cuore, nel caso tuo non ne vale la pena assolutamente. Se mi devi dire qualcosa me lo dici davanti, in faccia, in radio ci sono troppi gerani dusi, nel senso c'è troppe, non ce la vedo, troppe, molte volte troppe discussioni di cose, di pettegolezze, di cose a me non piacciono. Poi quando sento questo fatto della portante io dico rimango stupito, perché stiamo parlando di adulti, non stiamo parlando di ragazzini, posso capire un ragazzino, per cui preferisco allontanarmi, o cambiare canale o spegnere tutti gli apparati. Sì, beh certo, il baracchino serve per quello, per rilassarsi un attimo, non c'è bisogno di arrabbiarsi, ci mancherebbe altro. Ma io 1972, febbraio 1972, siamo nel 2021, subito fa il conto quanti anni sono. A febbraio 49 anni di frequenza, e non ho giovato mai con nessuno, non mi hanno mai sentito dire una sola parolaccia, e non ne dirò mai, ma non qua solamente al baracchino, ma soprattutto in famiglia, non mi sono mai permesso e non mi permetterò mai, per cui per me il baracchino è solo motivo per rilassarsi. Tutto lì, avanti Tony. Ma io penso che su tu glielo posso dire, perché sono anche umile, la verità. Da ragazzo ero casinista, settembre 74, ero il numero uno casinista in tutto per tutto. Quando scappava la parolaccia scappava ben volentieri. Poi andare nel tempo, giustamente, sono cambiato, come cambiano tutti. L'età, capito? Ho fatto l'assenza di 14-15 anni circa, avevo venduto tutto, a me fregava niente. Quando maturi da ragazzo, piano piano, insomma, ti accorgi che la vita è questa, ti devi comportare bene con tutti quanti, eccetera, eccetera. A parte che sono cardiopatico, quello è venuto dopo, comunque. Ripeto, gli amici sono amici, bisogna discutere, poi non so, fammi sangue infattivo per una persona, perché, ecco, giustamente l'ho detto Roberto, non lo dici in faccia, se sei uomo. Però a volte ti fanno salire le staffe proprio al punto di uscire, andare a bussare la porta, perché lo fa, capito? Io mi auguro che non capiti mai una cosa del genere. Né a me né a nessuno, tutto questo mi prendi Claudio, sì. Sta niente cagona, so. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Antonio. Ciao Antonio, ben entrato. Sì, ma è così che deve essere, tu lì, cosa stai lì a bestecciare, gente che si è arrabbiata, boh, cose dell'altro mondo, cose da bambini, vabbè, erano altri tempi, c'erano i casinisti, ma io ad esempio, prendiamo ad esempio l'esempio di Falcone, a Falcone chi è che non l'ha preso in giro? Un po' tutti, ma io ti posso giurare, su quello che vuoi che io non mi sono mai e poi mai permesso di sfottere a Falcone. A preferenza lo sentivo e cambiavo canale, perché intanto sapevo che lì dove c'era lui non si poteva parlare. Un po' perché era lui casinista, un po' perché poi c'erano gli altri che lo attaccavano, perché ci prendevano gusto, però io ho sempre pensato è una persona malata. Non si deve prendere in giro, bisogna rispettare chiunque. E Falcone era uno di quelli che doveva essere rispettato, a differenza di tantissime persone che invece rilevano, lo prendevano in giro, lo sfruttavano anche, gli mangiavano anche soldi perché lo portavano nelle pizzerie e facevano pagare a lui, e tutte queste cose le sappiamo, perché lo sappiamo veramente, ma non era giusto, non era corretto per conto mio. Avanti Gianni. Ciao Antonio Vicentito, e lo so, erano altri tempi, in effetti così, a me io una volta lo vedevo così e non avevo capito che era malato ancora, pensavo che fosse una persona che avesse dei problemi eccetera eccetera, sono voluto andare, l'ho preso in macchina, gli ho fatto fare un giro e lui era tutto vergognoso, con la testa bassa, tutto ben vestito, è venuto, l'ho fatto fare un giro, poi siamo andati lì, prima andando a Porto Tosa, prima della cantoniera, c'era un vascone dove tutti lavavano le macchine, mi sono fermato per lavare i vetri della macchina, e come mi sono inchinato l'ho visto con gli occhi attaccati al vetro, che se tu non si vedi Falco, devo alzare lo stereo, e ho detto alzalo, non c'è problema. Poi gli ho detto, vedi, non dire che ti ho portato in giro, come ti sono, no, non dico niente, come sono arrivato a casa lo sento, oh, oh, oh, sapete con chi ero? Con doppio, oh, e tutti quanti sfottendo a me, capito? Sì, già, ma è così, infatti io non gli ho dato adito mai, assolutamente. E dopo, col passare degli anni, lui andava dal cartolaio sempre di Vianura, lì all'angolo, e io lo vedevo praticamente quasi tutti i giorni, perché andava lì, si sedeva o di mattina o di sera, rimaneva una mattinata intera oppure una serata intera, perché era amico di questo Mario, il cartolaio, che c'era lì all'angolo di Vianura prima. E lo vedevo tutti i giorni, tutti i giorni. Eppure io diverse volte ci ho parlato con lui, ma non mi Mario Cagagliata! Giuro, non mi sono mai permesso di apostrofarlo in nessuna maniera, nulla. Anzi, quando parlavo di Baracchino le cambiavo anche il discorso, le cambiavo, proprio perché? Perché non mi andava di rivangare i vecchi momenti che lo prendevano in giro. In poche parole, diciamo che avevo anche un po' di pena di questa persona. Perché non era giusto, secondo me, prendere in giro una persona malata. Io sono di questo carattere, perciò, vedi bene. Avanti Antonio Bombolo. Lo conosca Mario, ha voglia che lo conosca Vincenzo, lo conosce a Mario, a tutti conosco. Rilancia tu, rilancia, avanti Tony. Vabbè, ci siamo divertiti quei tempi, dai, mi era tutta un'altra cosa, come dicevi tu giustamente, altri tempi. C'era di tutto, quindi c'era più gente, non è come così adesso. Vabbè, ma Claudio è rientrato, Claudio? No, avanti Roberto. Vabbè, purtroppo quello ha fatto la storia, io non l'ho conosciuto, ha fatto la storia della frequenza, almeno ho sentito i racconti, qualcuno magari ne ha approfittato, purtroppo capitano queste cose, vabbè, l'importante è cercare senza di non esagerare, senza creare tutto troppo fastidio, dai. Ok, ho sentito Antonio Bombolo, ciao Antonio, ben sentito, rientrato doppio rum, ho visto, poi chi c'è? Toni non siamo, Giulio, Claudio Sparviero, vediamo se c'è ancora, avanti Claudio. Claudio è impegnato, io già me lo ricordo a Poletto, un po' di anni fa, ero un ragazzino, ero. Cosa vuoi papà? E combinavo le tutti i colori, cioè. Era fatto così e boh, dovevo lasciare un pochettino stare anche, invece lo sentiva tutto il vicinato, lo sentiva anche a voci. Ciao Antonio. Buonasera, buonasera Antonino. Tu pensa che io so anche chi gliel'aveva buttato giù l'antenna, addirittura gli aveva piegato il palo, erano andati a trovarlo a casa sua e per fargli il dispetto l'hanno preso e gli hanno piegato il palo, perché era accessibile alla sua antenna da parte di chiunque. E io so anche chi gli ha piegato il palo, ma non ho mai detto in frequenza, non lo devo mai, perché non è corretto nemmeno fare quello. Ma chi non si guardi la IPA, bisogna essere sempre onesti con se stesso, soprattutto con gli altri. Avanti Gianni. Era volta il compleanno che gli hanno fatto la torta a forma di plus de pis. lo so già, però non a me, guarda, mi faceva pena quando sentivo che lo prendevano in giro, io cambiavo canale, intanto in quel periodo non mancava la gente dove parlare, tutti i canali erano occupati da ruote abbastanza larghe, 6, 7, 8 persone, anche di più alle volte, per ogni canale, per tutti i 23 canali di allora, per cui non c'era problema nello spostarsi da un canale all'altro. Avanti e robe. Lo so, era più semplice. Ok, vabbè, Claudio stava facendo quell'operazione con la moglie e basta. L'avete vista l'acqua? Anzi, sentita l'acqua, sento una acquazzone, sono dentro casa, non sono uscito stasera. Ne ho preso un pezzettino salendo a Usilo stamattina, Maria nella scendendo in uomo. Stasera ieri da carica a arrivare al centro Carni, ci ho messo quasi un'ora dal traffico che c'era. E lo zeppo di macchine, dopo c'è che la gente non gira. Non si poteva camminare, file esorbitanti c'era. Ma stamattina qua dove sono io, oltre all'acquazzone fortissimo che stava scendendo dal cielo, scendevano anche granellini di quelli di ghiaccio, diciamo, di grandine. E devo dire che sulle macchine faceva anche un bel rumore. Infatti la strada qui era tutta allagata, meno male che in discesa e defluisce subito. Per fortuna non succede come è successo a Bitti. Vai Antonio. Io lo sento, come se lo sento qua? Quando succede che fa grandi, non piove forte, io lo sento molto bene qua. Lo credo che lo senti. Io stamattina, intorno alle 10, una cosa così, 10, 10 e un quarto, qui ha fatto proprio una bella passata, ma veramente forte, forte, forte, che la capota della macchina era già tutta imbiancata di grandine, però si scioglieva quasi istantaneamente. Perché? Perché stava anche piovendo, proprio forte, ma per strada già si vedevano i granellini della grandine. Avanti, Tonino. Ha messo tutta la settimana comunque pioggia in Giulio, quindi anche domani, dopodomani. Vabbè, se dicono poi che i bacini sono vuoti, me ne mangio, già. Vabbè, io mi devo spostare comunque. Semmai ci risentiamo più tardi, o in tal caso, alla prossima volta. Un salutone in circolare, statevi bene, buon proseguo, ripetilo bene. Ciao Antonio, ben sentito, dai. Mo proseguo anche a te, io adesso anch'io tra poco mollo, rimango un pochettino qua, qualche minuto e poi vado anche. Dai, rilancio a Giulio per saluti, poi Antonio Bombolo, doppio room, se c'è Claudio saluta anche lui. Avanti, a chi tocca. Hai detto che rilanciavi a me, ti prendo io allora. Ciao Tonino, grazie per la chiacchierata, ci sentiamo alle prossime, dai. Faccio girare per i saluti, vai Antonio. Capo, dai, salutoni Tonino, ce la risentiamo alle prossime. Avanti già! Riprendi tu, Anto, dai, che stavo facendo un messaggio qua, KK. E allora, Anto, come te la travaglio oggi? Il fuso dice, tu non hai lavorato oggi. Non manco per idea, non ho lavorato, no. Ero a casa, ero, tutto il giorno, poi siamo usciti, abbiamo fatto le commissioni, e quello e quell'altro. Domani mattina si lavora. E gente gira a venire? Ma in questa zona neanche più di tanto. Ah, capo, siete stati lì in zona, va. Ho capito. No, ieri non si poteva stare, c'era la gente a gogo in giro, ma traffico, di tutto e di più, guarda. Sono andato poi a carica, a mettere il gas, arriva il fornitore, il gas esaurito, ma va in ora a Malaga. Dopo tutto il traffico che mi sono assorbito, non c'era gas. Ma come ti va a punire il gas? Domani mattina vado e lo metto. Deve arrivare la cassiera sicuramente, domani arriva. E infatti vado un po' tardi, di modo che non ho il tempo di scaricare e di far fare il pieno a qualche altra macchina prima, perché se no imbruttare l'impianto. Chi c'è profano, non c'è problema. Sì, quello di carica è buono, è come quello di Portottore. Cosa vuol dire Zendi? Chi c'è buono, non ti dà nessun problema. Si pone la miscela, come ti dà già a rompiti di yo-yo. Cioè, a rompere le scatole la macchina. Ma se metti quello, no, non ti dà problemi. E Gavino, quando mi ha cambiato il filtro, me l'ha fatto vedere. Le macchine che lo mettono a Sassari, era mia. Quello là ci aveva tutto il catrame attaccato, catrame proprio, gli ha sfruttato un prodotto che c'hanno loro, si scioglievano, che era catrame proprio attaccato, dice che quello blocca, è una farfalla che fa cambiare praticamente da gas a benzina, no? Quindi lo blocca e ti si ferma la macchina, secondo come va, a me me l'aveva fatto una volta nell'astra e poi non ne avevo più messo, poi da quando ho messo il gas al fornitore non me l'ha più fatto. E mi hanno dovuto pulire tutto l'impianto, compreso il polmone. Adesso, vabbè, e poi lì, vabbè, Antu, lì ha fatto la scoperta che quando ho fatto la fietta a fare il tagliando mi hanno rotto il tappo, quello che si mette sul tappo delle punterie, quello in plastica, e avevano tentato di aggiustarlo. Cazzo, non solo se ne sono accorti, hanno anche tentato di aggiustarlo, ho fatto un casino, me l'ho fatto cambiare. Io sono di grazia adesso, per carità di Dio. Non è meglio di cottare un muro, che... È il bello che mi ha detto, chi me lo dice che non è stato lì a romperlo e aggiustarlo? Chi glielo dice? Io l'ho sempre portata qua la macchina a fare tagliare, per quale motivo dovrei aprire il motore io e smontarle il tappo e coso? Io non l'ho mai fatto queste cose, io la porto sempre a chi è di dovere, non ne ho mai toccato motore. E poi mi sono incazzato e adesso voglio parlare col capo ufficio, non mi interessa parlare con lei, per me non è niente. Mi fa, ma come non sono niente, io lavoro qua, sì, lavoro qua, ma mi chiama il capo ufficio. Quando è venuto ha preso la fattura del lavoro che mi avevano fatto, ha guardato chi era, è salito in su, dopo 5 minuti è sceso, mi ha detto, ascolti, signor Bene, lo stiamo ordinando. Quando arriva lo chiamiamo, vuol dire che sapeva il fatto suo, no? L'abbia conto a capo, ve l'abbia conto. Avanti, io facciamo riprendere a Roberto. Vabbè, capita, qualche dipendente un po' così distratto, chiamiamo, l'importante è che risolvano il problema. Vabbè, io capisco che possa capitare di rompere una cosa, però avvisami, guardi, smontandolo si è spaccato, gliel'ordiniamo, quando non è che tenti di aggiustarlo per camuffare la cosa e pigliarti in giro, non va bene, è una cazzata il tappo di plastica, non serve a nulla, serve solo per estetica e basta, tu lo sai, però è il principio, capito? Ma tu sei andato alla concessionaria ufficiale o da un meccanico autorizzato? All'autoasso l'ho andato. E ora già risolvo, non ti preoccupare. Sì, me l'hanno già cambiato, mi hanno telefonato e me l'hanno cambiato. Però hanno anche dubitato del fatto che fossi stato io a romperlo, capito? Quello mi ha dato un po' di fastidio, questa risposta che mi hanno dato. Quella non va bene, dai, perché devi stare nel dubbio, ti stai zitto. Ha detto che anche a loro gli è capitato che hanno versato la macchina nuova il giorno prima, il giorno dopo questa è trovata, ha detto che era toccata. E dice noi l'abbiamo tutta controllata, lavata, la macchina e tutto prima di darla. Ti pare che noi non ci fossimo accorti che era toccata. Ha detto che si denunciava e così, ma io gli ho detto io non sono di qui, io sono una persona seria. Cioè io non voglio avere, no, io se avessi avuto un colpo gli avrei detto mi ordini il pezzo, glielo pago e basta, finito lì, no? Ehi, non so, purtroppo i furbacchioni ci sono da tutte le parti, non dirlo a me che ne vedo di tutti i colori, di gente furba, ma furba veramente, e poi per il cui tu vive, vabbè, già glielo facciamo lo stesso. Vabbè, ma uno dopo che ha fatto il lavoro se lo deve anche controllare, vedere com'è. Se poi non va bene, dice no, questa cosa che però l'avete fatta male, per dire, c'è una colatura di vernice e cosa. È normale, è difficile che succeda, però può anche succedere, no? Niente, ma ci sono persone che cercano di deviare sempre, di alleviare le cose, magari gli dicono cosa, se l'ha rotto lo sgridano, glielo fanno pagare, non lo so come sia, però ha cercato di fare l'occhio, capito? È quello che mi ha dato fastidio a me. Siccome non sono andato col dito in bocca, sono tornato, Gavino, me l'ha svoltato quello che piazza i filtri per il gas, che fa gli impianti a gas, no? Me l'ha svoltato davanti, mi ha detto già, guarda, ti hanno rotto il tappo delle punterie, hanno tentato di aggiustarlo, ma come stai, cosa stai dicendo? Sì, guarda, me l'ha fatto gli attrici, si rivela. Praticamente c'è un gommino che dopo che svitti tutti i bulloni, questo gommino è da spingere col dito e fuoriesce, capito? Quello lì loro hanno tirato e ha spaccato il tappo. Non so, tutto può capita. Ok, riprende voi, devo fare una telefonata, scusatemi un attimo. Avanti Giulio. Ok, sì, riprendo anche per salutare, dai, ci sentiamo alle prossime. Grazie. Grazie a tutti per la chiacchierata, ci sentiamo domani. Ciao Gianni, ciao Antonio, ciao Roberto, ciao Claudio che si è ascolto, ciao Tonino se sei ancora all'ascolto. Saluto a tutti, ascolto il vostro finalino, Antonio, Gianni, e dopodiché chiudo, ok? Vai a tu. Aspetta Antonio, perdonami che sono all'ascolto. Scusate, ma io sono sempre un po' indaffarato, dai. Ciao Giulio, un abbraccio, ciao a chi è entrato, a chi è uscito. Anch'io rimango in QRX. Avanti, Antonio, scusa. Ciao Giulio, ciao, ci sentiamo, buona serata, dai. Buona continuazione, grazie per il questione. Avanti, Antonio. Ciao Giulio. Cappa, salutone Giulio, ci risentiamo alle prossimine. Avanti lui. Allora, anche io sono in ascolto, là. Cattogiamo, ma io ce la vago, c'è mia 400. Cappa, bianco per me, perché devo scendere giù a cucinare. Sta bollendo l'acqua, ok. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, tu. Che cosa ha mangiato? Dice, non mangia nulla lì. Ma ce l'aveva a 341. Un casino. È troppo alta la glicemia così, ma non...